bambini che partiamo in giro per l'Italia, in giro per l'Italia ce ne andiamo. L'Italia è una penisola, è bagnata per tre lati lei dal mar. La parte rimanente attaccata è al continente che è l'Europa. C'è la Val d'Aosta, confina con la Francia, se France. Tra la Val d'Aosta e la Lombardia, Piemonte. E se vai in Liguria, splash splash, un tuffo nel Mar Ligure puoi far. In Trentino, in Friuli, invece puoi sciar. Se hai una fidanzata che di colpo con un gesto vuoi stupir, in Veneto, a Venezia, sulla gondola tu invitala a salir. Ma se poi ti viene fame e tu la polenta non vuoi più mangiar, in Emilia Romagna ti puoi rimpinzar di tortellini e parmigian. Sotto la pianura inizia un'altra parte che è central. In mezzo abbiamo l'Umbria, ad Assisi San Francesco puoi trovar. A destra vi le Marche, splash splash, l'Abruzzo e poi il Molise, splash splash, un tuffo nell'Adriatico, Adriatico puoi far. Ad ovest la Toscana, gli Uffizi di Firenze e Pisa, con la torre che pende Viareggio, poi con il suo grande carneval. Nell'Lazio c'è la Matera puoi guardar. Se passi per la Puglia tu pizzica e taranta puoi ballar. Ma se pizzica la lingua, ai ai, l'anduia calabrese sputerai. In Sardegna e in Sicilia di corsa nuoterai. Questa è l'Italia. Allora, buongiorno a tutti e tutte, ore 12:20 di questo sabato 20 dicembre, cominciamo questa terza puntata di In Giro per l'Italia dai microfoni di Radio Onda Rossa, frequenza 87.9. Questa terza puntata è dedicata alla regione Puglia in senso ampio e parte ovviamente con le parole abbastanza trash di questa canzone In Giro per l'Italia. E noi abbiamo già un primo collegamento e questo primo collegamento è con la città di Lecce, con i compagni del Centro Sociale Occupato Binario 68, e magari una brevissima introduzione prima di cominciare a fare questa chiacchierata con i compagni di Lecce. E questa terza puntata si inquadra più o meno nello stesso schema delle due precedenti, perché essendo sempre una regione del sud bisogna cercare di analizzare in un certo modo e provare anche a inquadrare nello stesso modo in cui abbiamo già fatto alcune questioni, per cui vorremmo magari partire da qualche dato, qualche nella concretezza sulla situazione economica e sociale che si vive nella regione Puglia, quindi cercare di capire se si vive più o meno la stessa condizione delle regioni Sicilia e Calabria, cioè se il dato di disoccupazione, il dato di emigrazione, il dato anche di stile di vita che si conduce nella regione Puglia sia lo stesso di cui abbiamo già potuto discutere con gli altri compagni. Chi avrà già ascoltato le prime due puntate si renderà benissimo conto e già saprà del fatto che, come anche ha messo in luce il rapporto Svimez, al sud si vive una situazione abbastanza tragica, drammatica dal punto di vista economico e sociale, tant'è che anche un organo come quello dello sviluppo del Mezzogiorno, cioè non un organo a noi vicino, mette in luce una problematica per cui il sud pare non abbia speranze di ripresa e di crescita economica nei prossimi anni, tant'è che il tasso di disoccupazione, se quello ufficiale è fermo al 19,7%, il tasso invece che comprende anche le persone che non stanno neanche cercando lavoro arriva al 31%, per cui ci possiamo facilmente rendere conto della situazione. Detto ciò, magari andiamo a vedere con i compagni di Lecce che situazione ci descrivono per la città e per la provincia, se queste cose che abbiamo appena detto sono attinenti alla realtà anche per il loro caso. Ci senti? Ciao, ciao. Perfetto, ci siamo. Ciao, un saluto al binario intanto, perché da qui che chiacchieriamo insieme, insomma, sono Federico, Qual è la situazione? Il quadro generale del sud, ovviamente, inutile dirlo, non sbagliamo, cioè corrisponde anche a quello che accade a Lecce. Lecce è una città che soffre sicuramente anche un certo grado di miseria, anche se lo si vuole nascondere, perché a differenza delle altre province della Puglia, quella di Lecce è stata sempre una provincia che è stata predestinata, diciamo, dal mercato come un paese che deve mostrare uno spazio architettonico, culturale, per incanalare, diciamo, l'economia verso il turismo, perché insomma la provincia di Lecce si sa non sempre destinata, diciamo, ad ambiti economici di tipo turistico, non ha sicuramente una vocazione industriale come accade per esempio a Taranto con la sua IVA, con le sue basi militari che inquinano da anni la gente e le loro vite, come quello che accade a Bari e Brindisi come città portuali o a Foggia. Quindi la provincia di Lecce è una provincia che, specialmente la sua città, che si sposta, diciamo, a mascherare la sua miseria, a mascherare le sue lacune, che sicuramente sono anche rafforzate dalla mancanza di occupazione. Però la questione ancora va anche oltre la questione del lavoro, insomma, il problema. È molto grave la questione dell'abitazione, dell'abitativo, dello strato. Non è più, ovviamente, non è scontato permettersi un'abitazione decente, vivere in un'abitazione decente o vivere in una casa, perché già abbiamo saputo che in quest'anno Lecce, la provincia di Lecce, è anche prima in classifica nel numero di sfratti, di ordini di sfratto da parte delle istituzioni, no, che si occupano dell'abitazione popolare. Non un felice primato, diciamo. Molto grave. Come? Non un felice primato. Per niente, perché risultiamo primi in classifica appunto nella regione Puglia tra gli sfrattati, insomma, oltre che tra gli sfruttati forse. Poi insomma, senti, posso chiederti magari come hanno agito alcune cose, che influenza hanno avuto negli anni, perché mi sembra di capire dalla descrizione che fai che non solo la città ma anche tutta la provincia è abbastanza contraddittoria, perché seppur vive una situazione di crisi si cerca sempre di mascherarlo. Io magari vorrei aggiungere e fare una chiacchierata anche breve, sintetica con te su che cosa vuol dire per esempio il fatto che nelle poche fabbriche che c'erano nel Salento fino agli anni 90, come anche per esempio la produzione di tabacco e di sigarette, sono state chiuse, e quella era parte importante dell'economia salentina, come invece l'agricoltura sta subendo i cambi imposti dall'Unione Europea, per cui queste notizie degli ultimi anni, dell'ultima estate, gran parte del prodotto rimane ben venduto e lasciato a marcire nelle stesse campagne, e invece dall'altro lato come invece agisce il turismo. Certo, cercano sempre di conciliare l'ideale, no, di turismo e agricoltura, sana agricoltura. No, l'agricoltura non è sana per niente, perché comunque l'utilizzo di dispositivi biotecnologici, di tecnologie biotecnologiche stanno piano piano cominciando a sedimentarsi anche nei territori del Salento, minando anche la naturalezza, la genuinità del prodotto che si è dato, che non è soltanto una questione di prodotto, anche una questione di lavoro, ma anche una questione di abitudini, no? di cultura agraria, di contadina, di questa terra che insomma ha avuto sempre una vocazione più agricola che industriale, no? Poi ci sono tante, cioè sappiamo già 2 anni fa come andavano le cose, per esempio per cosa a Nardò, no? Che è uno dei tanti comuni della provincia di Lecce, abbastanza famoso per la raccolta dell'anguria. Dietro la questione dell'agricoltura si nasconde anche uno sfruttamento di immigrati assurdo. Fino a 2 anni fa, adesso la questione non fa tanto chiasso, c'è stata la questione della masseria Boncuri, per esempio, dove arrivavano a flussi di immigrati dal Nord Africa, alimentati, che volevano anche fuggire dalle guerre che riportavamo in Nord Africa, no? A proposito della questione della Libia anche. Arrivavano a sud, in particolare a Lecce, e venivano portati da tipi lofti, che sicuramente sono la mafia locale, venivano portati nelle masserie, queste masserie come la masseria Boncuri di Nardò, di questo comune, che raccoglieva come esercito manovalanza tutti questi immigrati alla ricerca di una soluzione alla loro vita, e venivano sfruttati per 2 ore e 50 al giorno nella raccolta di anguri e pomodori. che è una, diciamo che da un certo punto di vista l'agricoltura a Lecce in alcuni paesi si è dimostrata pure come un laboratorio di sfruttamento, no, per quanto riguarda l'immigrazione. Tutti quelli che detengono il potere della terra, dell'agricoltura, cercano di fare energia sul di fare un ottimo strumento dell'immigrazione, di strumentalizzare bene l'immigrazione per i loro interessi economici, no? Sì, a questo poi a questo problema dell'agricoltura, quindi di che vede varie problematiche convergere su questo ambito economico, come dicevi te, sia lo sfruttamento in gran parte della popolazione migrante, come dicevi te a Nardone, le campagne dell'Arneo, ma anche il fatto che poi con l'Unione Europea molti prodotti rimangono invenduti, per cui c'è anche una situazione di crisi estrema dell'agricoltura nel Salento. E poi c'è anche un'altra problematica, che è quella che ha visto l'influenza delle nuove cosiddette energie rinnovabili, col fotovoltaico soprattutto e con le pale eoliche, per cui tantissime persone che avevano pezzi di terreno di proprietà, che cosa hanno fatto? L'hanno lasciata in concessione a aziende per disporci pannelli fotovoltaici o pale eoliche. Di fatto questa ha influito anche sulla distruzione di terreni che invece prima erano destinati all'agricoltura. Poi però magari sulla questione del turismo, anche agitato e utilizzato in difesa della propria terra, magari ci torniamo dopo quando parleremo del gasdotto. Io ti volevo fare quest'altra domanda riguardo l'emigrazione, perché noi con gli altri compagni delle altre regioni abbiamo analizzato questo problema sia in termini generali sia in termini anche di militanza politica, cioè che cosa vuol dire, di come influisce negativamente da un lato il fatto che molte persone, quindi compagni e compagne, poi debbano a un certo punto lasciare la propria terra per andare a cercarsi banalmente da vivere, però dal lato invece c'è un lato positivo, un aspetto positivo, cioè il ritorno poi di tanti compagni e compagne che dalle città in cui si sono trasferiti poi tornano nella propria provincia o città di provenienza e riportano tutto un vissuto, un'esperienza politica che magari può anche fare il bene della stessa città. A Lecce come la vedete? Guarda, per fortuna non è che avvisiamo una grande mancanza, diciamo, di compagni, diciamo, nella città, perché per il fatto dell'emigrazione, anche perché vabbè, spesso i fenomeni di emigrazione, diciamo, ci sono dovuti anche a motivazioni studentesche, no? Per motivi di studio, per andare avanti con i propri percorsi di studio, insomma. Sicuramente ci sono anche una minoranza di compagni che sicuramente saranno andati fuori per motivi di lavoro, però più che altro già siamo pochi, insomma, qui, e cerchiamo di fare forza su tutte le lotte, su tutte le cose che facciamo qui. Però non c'è un'emigrazione proprio impattante, proprio deleteria, diciamo, per la cosa, anche perché, come hai detto tu, si possono pure trarre dei vantaggi, insomma, no? Avendo dei compagni che si muovono per motivi di lavoro, di studio, si muovono verso altre zone d'Italia e ci riportano informazioni, e in un certo senso infittiscono pure la rete, diciamo, di comunicazione, di scambi di informazioni e di solidarietà tra compagni del sud, come chi stiamo a Lecce, altri compagni che magari vivono più da vicino lotte magari più clamorose, come quella che accade in Valsusa da anni, no? Della TAB, altre cose, come la questione della lotta contro gli sgomberi, del diritto alla casa. Sono tutte informazioni che poi magari vengono da compagni che salgono su e poi scendendo, insomma, ci si scambia informazioni e ci si confronta, insomma, vicendevolmente, per capire come lottare meglio contro la repressione, no? Sì. Senti, in termini di attività politica che si porta avanti nella città e nella provincia, proverei, se vuoi, a fare un discorso ampio che parte sia dal binario ma anche da altri soggetti attivi in città e in provincia, cioè su quali campi andate ad agire e dove magari riscontrate o difficoltà o un'effettiva crescita, quindi una buona riuscita della vostra attività. Magari cominciando col binario, questo spazio occupato è nato, sta quasi per raggiungere un anno, abbiamo cominciato a occuparlo dal 1° marzo, il risultato di uno spazio occupato è tutto il risultato di tanti compagni e compagne che si sono viste per mesi, tutti accomunati, diciamo, dalla sensibilità verso la repressione che si subisce, anche per l'occupazione degli spazi, l'occupazione temporanea, diciamo che i territori al di fuori e dentro la città, perché dobbiamo dire che il binario in un certo senso è nato pure da un'istigazione a lottare, nel senso tutta la repressione che è stata subita, tutta la criminalizzazione di tutte le occupazioni temporanee che si sono fatte nelle campagne del Salento per dei concerti benefit o per delle iniziative, tutta questa repressione, diciamo, ci ha anche indotto a vederci un attimo e a capire come rispondere a tutta questa repressione, no? Insomma, infatti nei mesi estivi precedenti all'occupazione del binario, ma anche poco dopo, si è subito un tasso di repressione e di criminalizzazione nei giornali a proposito di quelli che i giornalisti raccontavano come party rave, dove creano immaginari stereotipati di ravers, che dove muore la ragazza, tutte queste storie che vengono, insomma, strumentalizzate per criminalizzare chiunque faccia porti avanti la pratica dell'occupazione. Tutto questo sicuramente ha fatto sollevare dei dubbi, delle domande e anche una voglia di lottare contro questi pregiudizi che servono a criminalizzare, appunto, la lotta per l'occupazione. La risposta è stata, appunto, l'occupazione nel quartiere San Pio, nel quartiere di periferia, di uno spazio occupato. Le lotte che si portano avanti, senza dubbio, sono quelle contro le nocività. Abbiamo prima parlato della cosiddetta green economy, però c'è dell'energia alternativa, che viene vista come un'energia pulita, che non è per niente. E poi ci sta anche l'energia come quella del gas, e appunto è inevitabile parlare di TAP, di Trans-Adriatic Pipeline, di questo canale che condurre il gas dall'Azerbaigian, dal Mar Caspio, fino alle coste del Salento, per fornire il gas a tutta l'Unione Europea come alternativa alle forniture di gas che ci vengono dalla Russia. Infatti viene visto come cioè, stanno portando un'operazione di marketing, tutti i sostenitori del TAP, volta a dare un'immagine benefica di questo gasdotto, che non farebbe alcun danno al territorio, che non farebbe alcun danno alla vita della gente, e sfruttano anche la questione del gasdotto, facendola conciliare con la questione della disoccupazione, perché con il gasdotto, dicono quelli del TAP, dice Giampaolo Russo, che la costruzione di un gasdotto implica anche l'aumento dell'occupazione, del tasso occupazionale, perché fornirebbe lavoro. Questo è un ricatto in più, diciamo, lo zuccherino in più che si lancia alla gente del territorio, che non ne può più, insomma, di una situazione dove manca un modo, insomma, per sostenersi, e quindi questa TAP sarebbe anche la panacea di tutti i mali dal punto di vista economico. Ci sono tante le menzogne che mettono in campo per farci accettare questo gasdotto. Senti, ti faccio tre domande in una, così poi magari rispondi tutte insieme. Allora, visto che comunque il TAP ancora deve attendere le ultime autorizzazioni, magari come si pensa che si possa andare avanti, che si possa condurre la lotta anche di concerto con, io uso questo termine, la cittadinanza dei paesi immediatamente interessati dalla costruzione del gasdotto? Poi, per esempio, tu prima parlavi della provincia di Lecce come la prima nella regione Puglia per numero di sfratti. Se per caso c'è in campo un qualche progetto di lotta per resistere a questi sfratti, e poi magari in senso un po' più aggregativo, in termini non prettamente politici, per esempio sullo sport popolare in città, che cosa si muove, dà ottimi risultati, buoni risultati da questo punto di vista. Certo, va bene. Parto dalla seconda domanda, quella che riguarda gli sfratti. Sicuramente è inevitabile creare qui, diciamo, una discussione a partire dal quartiere, come già stato fatto dai primi tempi di questa occupazione, di fare un discorso costante, diciamo, sull'importanza dell'occupazione come pratica condivisibile da tutti. L'occupazione è un atto alla portata di tutti, non è un atto che spesso magari può infondere un po' di timore, di paura, perché la gente nella vita di ogni giorno si trova ad affrontare vari ricatti. Se non paghi le tasse subisci tanto, se non lavori subisci ancora di più. Capire come affrontare tutte queste paure insieme tra la gente del quartiere, per capire che l'occupazione più si estende più è qualcosa di forte. Partiamo passo dopo passo, non abbiamo grandi pretese perché siamo già in pochi, però le forze e la volontà è tanta, e si parte passo dopo passo sicuramente a discutere di occupazione, dell'importanza dell'occupare come come strumento di lotta, oltre che strumento di, oltre che pratica, diciamo, quotidiana, che serve a rendere più decenti la nostra vita. Per quanto riguarda, ecco, poi un lavoro importante sarebbe anche quello di infittire la rete dell'occupazione anche verso gli altri paesi, perché appunto non si tratta di città di Lecce, ma si tratta di provincia, si tratta di tantissimi comuni che soffrono questa situazione. E, per quanto riguarda la questione dello sport popolare, diciamo che a Lecce è molto soddisfacente quello che sta succedendo, perché oltre alla palestra popolare c'è anche una squadra che sta andando benissimo da ogni punto di vista, che è quella dello Spartak Lecce, che propone un esempio, diciamo, di calcio popolare da ogni punto di vista, nel modo della concezione del calcio, di un calcio anticapitalista, di un calcio lontano dal business, di un calcio basato, le cui scelte sono basate sull'azionato popolare, dove tutte le decisioni, insomma, sono la conseguenza di quello che si decise tra i sostenitori, tra i compagni e tra la gente che riconosce questa squadra, e conoscendola, diciamo, si condividono anche l'opportunità di condividere questioni, discussioni e valori come l'antifascismo, l'antirazzismo, e la lotta contro la nocività. Perché per esempio l'aggregazione che si sta creando negli spazi quando lo Spartak fa una partita è tanto forte che anche una questione sul gasdotto può essere trasmessa attraverso una partita di calcio. È un valore aggregativo, insomma, lo Spartak Lecce è importantissimo, fortissimo. Sì, tra l'altro anche la curva nord della città, gli Ultra Lecce, hanno preso parola contro il gasdotto, per cui da questo punto di vista ci sembra che almeno in quanto a opinione pubblica si stia diffondendo la contrarietà nella provincia. Certo, è stato molto stupefacente il fatto di vedere uno striscione steso in curva nord sulla questione, diciamo, esterna al calcio, no? Però non è così esterna e lontana dalle vite di tutti quelli che affrontano, che guardano anche una partita di calcio. Nel senso, è stato molto interessante, piacevole vedere. Mi interessa la questione del gasdotto, una contrarietà, una voglia di lottare contro questo gasdotto anche dagli spazi di una curva rotta. È stato molto interessante questo. Molto. E proprio per il gasdotto, come può proseguire, come può nascere una lotta che si opponga a questa ennesima devastazione del territorio, non solo italiano, ma in questo caso soprattutto salentino? Certo, sicuramente non abbiamo la soluzione in tasca, anche perché le nostre scelte di lotta, le nostre azioni di lotta saranno sicuramente dipendenti dai passi che prenderà il gasdotto. Cioè la nostra reazione dipenderà molto da come andrà avanti la questione del TAP. E adesso sembra quasi oltre alle iniziative di strada che si fanno ogni giorno, di controinformazione, di sensibilizzazione, perché è quello che si può fare adesso. Sembra che la TAP stia trovando anche degli intralci dal punto di vista giuridico legale, perché se tutti quelli che lavorano legalmente contro il TAP stanno cercando di trovare, diciamo, un cavillo, giustamente, per interrompere il processo del TAP, la costruzione del gasdotto. Infatti ancora la questione è difficile dare una risposta a come lottare, perché materialmente ancora il gasdotto non è stato avviato, non esiste. I lavori partirebbero dal 2016. Sicuramente le idee di lotta, di una lotta concreta dal basso, si chiariranno confrontandoci nel tempo, avendo di fronte la cantierizzazione di un gasdotto che ci auguriamo non venga mai e che con ogni mezzo si interrompa, anche dal suo nascere. Di sicuro io mi permetto di dire, chiaramente non in termini di mobilitazione intesa come compagni e compagne della città e della provincia potete portare avanti, ma di sicuro leggendo magari sui mezzi di comunicazione non troppo di massa, comunque quelli locali, viene continuamente agitato il fatto che come giustificazione per non portare il gasdotto sulle coste salentine ci sia la questione del turismo. Ecco, io mi permetto di dire questo: non può chiaramente essere il turismo che frena la vocazione turistica di un territorio che frena la costruzione di un gasdotto, anche perché se guardiamo all'altra costa, quella ionica, proprio la vocazione turistica è una costante minaccia. Ricordiamo quasi 10 anni fa il rischio che correva faceva la parte, diciamo, proprio le marine di Nardò fra Porto Cesareo e Gallipoli, con la costruzione di un porto turistico che sarebbe andato a distruggere quello che poi diventò, grazie a una mobilitazione popolare, il parco di Porto Selvaggio. Per cui appunto fa un po' ridere ed è un po' contraddittorio sentir parlare di vocazione turistica in difesa del territorio. È specialmente molto limitativo, perché bisogna allargare la discussione su che cos'è il TAP in sostanza. Non è sicuramente un gasdotto, semplicemente. La vocazione turistica non è la ragione principale, ma neanche una ragione, per quanto mi riguarda, per cui bisogna opporsi a un gasdotto. Questo è il simbolo, diciamo, di uno sfruttamento a livello globale della terra e delle persone che ci vivono, basato sulla menzogna, basato sul ricatto del lavoro e su tante altre menzogne che inquinano la vita e la terra. Quindi la vocazione turistica è anche una bandiera che viene sventolata magari da imprenditori che hanno interesse economico sui territori, perché magari vedrebbero i loro profitti calare, temerebbero il loro profitti che calino magari i loro guadagni con la costruzione di un gasdotto. Infatti, a portare avanti queste, a stimolare molto la questione del turismo, sono anche comitati di imprese o di aziende turistiche che privatizzano spiagge, che costruiscono mega resort per alta classe, insomma, sulle scogliere, come è successo appunto a Porto Miggiano. Appunto, come hai detto tu, è molto contraddittorio anche parlare di no TAP per questioni turistiche. Non regge la cosa. Le ragioni vanno al di là del turismo, sicuramente. Va bene, senti, prima di lasciarci e di salutarci, volevo chiederti se vuoi aggiungere qualcosa, magari anche a parlare delle prossime iniziative in campo in città e provincia. Certo, prossima iniziativa, il binario, il 27 e 28 dicembre ci sarà una Tattoo Circus, 8 tatuatori verranno a Lecce, insomma, per una convention di tatuaggi, il cui ricavato non entrare nelle tasche di nessuno e sarà destinato, diciamo, a una cassa per i detenuti, una cassa in solidarietà per tutti i detenuti, che per alcuni detenuti, insomma, che portano avanti lotte contro la repressione e lotte dal carcere e lotte contro le nocività. È sicuramente un momento di aggregazione importante, dove si discuterà della tematica anticarceraria, che appunto, non l'abbiamo detto prima, è una tematica che si porta avanti molto a Lecce, a partire dalla questione che c'è più stretta, come quella di Graziano, Francesco e Lucio, che sono stati arrestati e accusati anche di terrorismo da qualche settimana per aver lottato contro il treno ad alta velocità. Sicuramente gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa conosceranno la vicenda, però ulteriormente per chiarire, sono gli altri tre compagni imputati per associazione con finalità terroristiche per il sabotaggio ai danni di un compressore, per il quale, diciamo, proprio pochi giorni fa c'è stata una sentenza abbastanza positiva, sempre fra molte virgolette, che ha scagionato i quattro compagni, Chiara, Claudio, Niccolò e Mattia, dall'accusa di terrorismo. Per cui, da questo punto di vista, speriamo che anche per Graziano, Francesco e Lucio ci sia questo spiraglio di apertura davanti l'accusa di terrorismo. Sì. Va bene, comunque, senti, sarà sicuramente l'occasione per parlare insieme di anticarcerari, di lotta alla repressione, diciamo, attraverso l'aggregazione che può portare, diciamo, la passione per i tatuaggi e la passione per la musica, perché comunque nelle due serate ci saranno concerti punk hardcore e concerti rapcore il 27 e 28 dicembre al binario. Va bene, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, chiaramente per qualsiasi iniziativa, anche momenti di lotta da comunicare e da far conoscere al di là della provincia e della regione, i microfoni di Radio Onda Rossa sono sempre aperti a vostra disposizione. Grandi, ok, un abbraccio a tutti quanti allora. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao Francesco, ciao. Da Bari al beat, questa è Lecce che suona, Lecce che suona, è l'aria che respiro, questa è Lecce che suona, Lecce che suona, compa fate-ne un giro. E su Death Records, man. Ho storie vere come l'aria che respiro. Parlo di alle città facendo un giro. Non mi muovo da qua, resto nel mio delirio. È meridio, è meridio. Ho storie vere come l'aria che respiro. Parlo di alle città facendo un giro. Non mi muovo da qua, resto nel mio delirio. È meridio, è meridio. Ho storie vere come l'aria che respiro. Parlo di alle città compa, fatendo un giro. Gli sguardi lo schiebare, collane e bracciali a completo. Oro massiccio, Gesù Cristo ampietto. Menti del quartiere come Franco col fumo alle vele. Come Killa con le piante di scacchi in via Sele. Come Andrea al campo in piedi sopra le ringhiere. Come Mauri con le mani dure come pietre. La ganja che manca, la bamba 90. Marocco da un netto, il top per la piazza. Parola di troppo alla sua ragazza. Dopo la botta, mani alla faccia. Gira tutto attorno, un inverno fondamentale. Portare a casa il pane senza finire male. Nella mia zona è il primo dogma da rispettare. Lo sai fornaio, lo sbirro è il criminale. Ho storie vere come l'aria che respiro. Parlo di alle città facendo un giro. Non mi muovo da qua, resto nel mio delirio. È meridio, è meridio. Ho storie vere come l'aria che respiro. Parlo di alle città facendo un giro. Non mi muovo da qua, resto nel mio delirio. È meridio, è meridio. Sfrecciano i grossi braccio fuori sopra i 5.000. I musi storti dei ragazzi sopra la panchina. Chi dà la mattina sputa sangue e suda. E chi suda adrenalina mentre strae la tufa. Chi deve andar via, partire lontano. Ma si porta dentro Lecce, questo è per Moano. Chi sfida la legge, sfida il più forte. Quando le regole del gioco diventano sporche. Cala il silenzio, è come se si ferma l'aria. Senti le botte, rimbombano di strada in strada. È la notte che si veste con il dramma. E le voci corrono da piazza a piazza. La notte cambia tutto, tutto si ribatta. Ed ogni vicolo, ogni strada cambia la sua faccia. Le storie di sempre non cambiano, sai. E le a quai li guai non spicciano mai. Ho storie vere come l'aria che respiro. Parlo di alle città facendo un giro. Non mi muovo da qua, resto nel mio delirio. È meridio, è meridio. Ho storie vere come l'aria che respiro. Parlo di alle città facendo un giro. Non mi muovo da qua, resto nel mio delirio. È meridio, è meridio. Amo questa terra come amo la mia donna. Parla chi l'ha vista lontana e dopo ritorna. Assapora quel dolore che si chiama emigrazione. Quando lasci la tua zona per un'altra regione. Ma se tutto il corpo viaggia, sai che il cuore resta fermo. Fermo come è stato il mio, ogni giorno nel Salento. Da CB a PG, mai mollato le radici, resto qui. SUT, mai scordati i miei amici. Questa va per chi lavora, chi studia e parte lontano. Chi suda sboccando il sangue per un altro salario. Chi chiude dentro una busta tutto quello che ha buscato. E campa la famiglia da un posto troppo lontano. Chi torna solo alle feste e non lo vedi cambiare. Chi scrive sui muri UL in ogni posto in quest'ato. È la sofferenza per la terra che crea dipendenza. A volte parte e vai via e dopo non puoi starne senza. Ho storie vere come l'aria che respiro. Parlo di alle città facendo un giro. Non mi muovo da qua, resto nel mio delirio. È meridio, è meridio. Ho storie vere come l'aria che respiro. Parlo di alle città facendo un giro. Non mi muovo da qua, resto nel mio delirio. È meridio, è meridio. E allora ritorniamo in onda, saliamo a nord di 40 chilometri, ci trasferiamo a Brindisi e abbiamo in collegamento un compagno del comitato No Carbone che ha già ascoltato la prima parte di questa trasmissione, per cui sarà sicuramente già sulla lunghezza d'onda, per cui appunto gli chiediamo come banalmente si vive a Brindisi e che cosa ci hanno da dire i compagni in merito a quello di cui dicevamo prima, di cui parlavamo con i compagni di Lecce. Buongiorno prima di tutto. Buongiorno e benvenuto a Radio Onda Rossa. Buongiorno. Da dove partiamo? Perché insomma hanno toccato tanti argomenti, dal turismo ai problemi diciamo sanitari a quelli poi dello sviluppo del futuro. Io partirei diciamo con una panoramica su quello che è la città attualmente. Abbiamo una zona industriale che è 5 volte la città e soffre diciamo questo peso a livello mostruoso, perché non è soltanto diciamo un'azienda caratterizzante, noi ci chiamiamo No al Carbone ed è probabilmente la punta dell'iceberg, ma effettivamente sotto l'iceberg ci sono tante altre industrie che spaziano dalla farmaceutica al polo chimico, dal deposito gazziero a discariche diciamo per rifiuti industriali e quindi insomma una panoramica molto allargata. Pur non avendo, io non me la sono mai sentita dare, probabilmente la città non ce l'ha, una vocazione industriale. Questa è una delle parole che ultimamente ricorre di più e che sempre di più mi fa incazzare. Cioè, se effettivamente questa città ha uno sviluppo, cioè ha una storia legata al porto e quindi al commercio, e travisare questo aspetto, diciamo, questo spirito commerciale con quello soltanto di accoglienza delle merci, del carbone in particolare, per la trasformazione in energia, beh, non è questa la vocazione che abbiamo mai avuto. Quindi anche dal punto di vista insomma del linguaggio, io penso che qualcosa bisogna cominciare a mettere i puntini sulle i. Certo, va benissimo. Senti, più in generale, chiaramente ogni, per quanto magari dall'esterno si possa pensare che una regione del sud Italia sia tutta uguale a se stessa, io metterei in evidenza le specificità della provincia di Brindisi rispetto anche a quella di Lecce, perché chiaramente si parla di un tessuto industriale più diffuso, già qualche cosa la dicevi in questo senso, per cui suppongo che anche dal punto di vista di condizioni economiche magari il livello di sfruttamento di miseria è più o meno simile, però chiaramente ci sono delle problematiche un minimo un pizzico differenti, no? Sì, chiaramente. Io in realtà avevo poi un'altra visione rispetto al ragazzo che ha parlato prima del binario, non fosse altro perché per quanto diciamo ha un forte impatto sul territorio, lo sviluppo turistico, quando è fatto a uso bestia, quindi Porto Cesareo, Gallipoli, dove la speculazione edilizia diciamo ha abbattuto le dune costiere per far posto a questi alberghi e queste case che vivono 2 mesi l'anno, e quindi è senz'altro un peccato e uno spreco, però diciamo rispetto a quello che è lo sviluppo industriale ha degli effetti secondo me minori, per cui insomma io personalmente auspico uno sviluppo più turistico rispetto a quello industriale che tanto ci propinano qui a Brindisi. Ora i due grandi diciamo vantaggi che ha, o meglio i due motivi principali per cui il porto si è legato all'industria, è appunto la presenza di questo grande porto naturale che fa sì che le navi possano tranquillamente ormeggiare e caricare ciò che vogliono, o almeno caricare forse ai tempi dei romani o insomma fino agli inizi del Novecento. A partire dagli anni 60 Brindisi e Taranto sono state diciamo marchiate dalla stessa politica industriale dei poli di sviluppo, per cui mentre Bari, Lecce, Foggia un po' ignorate da questo punto di vista, su Brindisi e Taranto si è voluto puntare molto, a Brindisi con il petrochimico, quindi con il polo chimico portato qui a Brindisi dalla Montecatini, che dopo neanche 15-20 anni dal suo insediamento nel 68 si avviò la produzione, e nel 77 l'8 dicembre ci fu lo scoppio del reparto P2T, che era uno dei reparti diciamo più importanti all'interno del petrolchimico, diciamo, quindi dopo questo scoppio ci fu comunque un calo della produzione chimica. Successivamente a questo, negli anni 80 si è pensato bene, proprio ironicamente, di passare da polo chimico a polo energetico, quindi quello che era appunto il polo chimico incominciava ad avere ad abbassare i livelli di produzione, mentre veniva costruita la centrale di Cerano. Ora Cerano è emblematico per noi perché ha una distanza dalla zona industriale e dal porto di oltre 12 chilometri, 12-15 chilometri. Ora questa distanza è unita da un altro trasportatore che porta il carbone e che taglia la costa in due parti, diciamo creando una vera e propria ferita che taglia in due la fascia costiera, profonda 10 metri, larga 20 e lunga 15 chilometri. Quindi insomma questo nostro trasportatore attestato che collega il porto con la centrale trasportando il carbone, fa sì che le polveri di carbone vengano riversate poi su quelli che sono i campi agricoli intorno al nastro. Questo ha portato sì che nel 2007 il sindaco di allora facesse un'interdizione dei campi per la coltivazione. Il TAR ha successivamente bocciato questa ordinanza sindacale. Il risultato è che abbiamo comunque dei carciofeti, ci passavo l'altro giorno, davanti alla centrale, ben ricchi, che arrivano sulle nostre tavole, ma la cui insomma provenienza, a mio avviso, è pericolosa, ma veramente pericolosa. Tanto è vero, l'altro giorno incontravo dei contadini e raccontavano per l'ennesima volta quando l'Enel negli anni 90 è andata più volte presso questi contadini a comprare il raccolto, o meglio a far sì che loro non lo raccogliessero. Cioè si rendevano conto che il raccolto dei contadini intorno alla centrale aveva dei puntini neri che quindi rendevano il prodotto non vendibile sul mercato, e affinché i contadini non sporgessero denuncia, non continuassero con azioni legali, hanno pagato il raccolto affinché non venisse raccolto. Ora, la cosa più straordinaria, quindi, prima di tutto il fatto che tu stesso hai ammesso questa colpa, la seconda cosa che io non riesco a capire, qual è la dignità del lavoro? Cioè, perché la dignità di un lavoro in un'azienda produttrice di energia è elevato, molto più alto, molto più protetto rispetto a quello dei contadini e delle 60 aziende agricole che lavoravano nella zona e che attualmente sono pressoché ai minimi termini. Mi raccontava la signora che erano attualmente c'è una produzione del 10% rispetto a quella che era fino agli anni 90. Cioè, quindi un'intera zona agricola, 15 km di costa, dove cresceva un carciofo brindisino conosciuto sui mercati internazionali, è completamente cancellata per l'avvio di un'altra attività economica che prevede insomma lo sfruttamento di enormi quantitativi di carbone, quindi l'immissione in aria ma anche in terra, appunto per quanto riguarda la movimentazione del carbone, di danni grossissimi per le altre economie. Cioè, se noi pensiamo che rispetto a Brindisi, andando verso sud, quindi verso Cerano, noi troviamo questi 15 km di niente, non c'è un lido, non c'è una spiaggia, non c'è un'attività di turismo, che possa essere escursioni, che possa essere una masseria, no? Delle attività agricole, e regolarmente a nord della città, sempre a 15 km, abbiamo l'oasi naturale di Torre Guaceto, emblema per la natura e l'alto livello dei prodotti alimentari che lì vengono coltivati. Quindi e questo è il grosso scontro che io vedo fra il primo, no, tra l'attività agricola e quella industriale, tra la possibilità che c'ha la prima di essere rinchiusa a mera attività per pochi agricoltori che ancora si dedicano a questa attività, mentre l'altra deve poter avere tutte le diverse possibilità di protezione da parte della politica e dell'economia. Quindi noi vediamo per esempio il professor Pirro, un professore universitario che quotidianamente spende a vanvera parole per poter giustificare l'azione delle industrie a Brindisi quanto a Taranto. Quest'uomo, che è un professore universitario, almeno così si descrive, in realtà è assoldato dalla Confindustria Puglia per poter continuare a scrivere tutte queste baggianate. Ora, come si può far sì che un'istituzione quale l'università venga manipolata da una persona che invece viene pagata dai privati, dagli industrialisti, per poter dire quello che dice? Ora, no, ecco questo peso, e non c'è nessuno invece che dal punto di vista dell'agricoltura sottolinea quelli che sono le dinamiche, quindi gli impatti negativi di quest'altro settore che a mio avviso è molto importante. Ancora nella fase nell'intervista precedente si faceva riferimento ai pannelli fotovoltaici, una vergogna portata avanti dal governo Vendola, che ha fatto sì in modo molto bonario per essere buoni, ma in realtà io ci vedrei anche del dolo, a non garantire la produzione da verde, green, in determinati contesti. Loro che hanno fatto? Hanno detto che per un megawatt di produzione non c'era bisogno della DIA, che quindi c'era bisogno esclusivamente della DIA, questa dichiarazione inizio attività. In realtà la mala energetica, la malavita energetica ha preso di mira questa possibilità di non dover presentare particolari forme burocratiche e ha fatto sì che molti contadini si unissero, perché o meglio molti appezzamenti di terreno fossero uniti uno a fianco all'altro con giro di scatole, diciamo, cinesi, perché una volta tu sei il presidente, io il segretario e Caio il vicepresidente di questa società, e ci si scambiava le opzioni, in modo tale da avere dei campi fotovoltaici enormi che dopo anni sono stati sequestrati anche dalla magistratura, ma che in realtà hanno creato un problema enorme, ovvero sotto questi campi non potranno più crescere pomodori nei prossimi decenni, e quindi allo spazio in più alla produzione di questa alla produzione energetica da fotovoltaico non è stata sostituita in modo, diciamo, intelligente, ma solo tramite il mercato, la produzione da carbone. Quindi oltre al danno la beffa, non solo non si diminuisce la produzione da carbone, ma segue comunque dei livelli molto alti e pericolosi per la salute pubblica. Dall'altra parte la politica ha favorito l'implementazione di pannelli fotovoltaici che obiettivamente a noi non servono, cioè a noi parlo come Puglia, cioè se la Puglia esporta l'80% della produzione energetica, mi dite che cosa ce ne facciamo di alta produzione energetica? Ce lo dobbiamo mangiare? Non penso, insomma, fatti installare i pannelli fotovoltaici, io no. E però questo è il grosso del problema. Senti, allora io volevo farti due domande, allora poi scegli tu chiaramente l'ordine come rispondi. Allora la regione Puglia, grazie a causa, ognuno chiaramente la vede come vuole, dell'amministrazione, del governo, come dicevi te, di Vendola, è stata vista in Italia come una regione all'avanguardia in termini anche di tentativi di creazione di occupazione, soprattutto per i giovani emigranti, per farli ritornare a casa, e anche da un punto di vista culturale, per cui anche la stessa regione Vendola ha battuto tantissimo sulla questione turistica. Ma anche io ricordo nelle campagne elettorali, sia la prima che la seconda, si batteva tanto sia sulla sanità che su, appunto, l'economia, diciamo un tipo di economia di sviluppo ecosostenibile. Chiaramente io vorrei capire, rispetto a quanto si è detto, com'è in realtà la situazione in Puglia, cioè queste sono semplici palliativi che in realtà non hanno modificato di niente la situazione, o se addirittura l'hanno peggiorata per certi aspetti. E poi l'altra domanda, visto che comunque la città e la provincia di Brindisi sono quelle anche un po' diciamo meno conosciute dal punto di vista politico, anche a me personalmente, come cercate di agire politicamente in città e in provincia, sia su queste cose che tu fino ad ora hai detto, sia magari su altri tipi di attività politiche? Sì, allora magari prendiamo da Vendola, non voglio gettare al mare, diciamo, l'intero operato di 10 anni, cioè il popolo pugliese ha votato un omosessuale comunista per 2 volte, quindi penso che abbia votato una grossa dose di fiducia, no, al governatore. Il problema è che non l'ha rispettato in tutto, per cui per quanto riguarda le politiche giovanili, io stesso ho una cooperativa che abbiamo aperto grazie a quel movimento, cioè a quella politica regionale, che è stata molto positiva, ha dato coraggio ai ragazzi affinché potessero, diciamo, immaginarsi un futuro differente, non legato alle industrie o comunque intriso di modernità, ma veramente. E quindi la possibilità a ognuno di fare un po' quello che vuole, investendo un minimo 25.000 euro a progetto per una regione, sono veramente una spesa contenuta rispetto ai vari milioni di euro che sprecano per immobili magari chiusi. Quindi non voglio gettare tutto a mare, ma quelli che erano gli argomenti forti, per cui anche, o meglio, più importanti, che hanno, penso, fatto la differenza all'interno della prima e della seconda campagna elettorale, erano appunto quelli della sanità e quello l'aspetto ambientale. In questo caso nulla è cambiato, per cui a Taranto la legge antidiossina è una fesseria, ma è una fesseria vera e propria, cioè comunque continuano a elevarsi le nubi di polvere dal parco minerali, così come ogni mattina vediamo, cioè, si può vedere dei fumi che escono dall'Ilva. A Brini si idem con patate, venne la manifestazione dicendo gli amici dell'Enel giocheremo il secondo tempo dopo aver giocato quelli con l'Ilva, noi ancora lo stiamo aspettando di rivederlo qui a Brindisi. L'unica è stata tentativo pochi mesi fa, quello di richiedere l'apertura dell'AIA, quindi l'AIA è la non mi sta venendo la definizione, però insomma è un documento necessario agli impianti industriali per poter continuare la propria attività, e quindi attualmente ha chiesto la revisione la regione di quel documento che però lei inizialmente aveva dato. Quindi ecco, la vedo più, a mio avviso, come una manovra, diciamo, politica in vista delle elezioni, piuttosto che qualcosa di reale. Gli stessi, diciamo, candidati alle primarie che si sono appena concluse, Emiliano, Stefano e Minervini, sono stati invitati dal nostro movimento a fare un Bedeni Tour, ovvero a portarli all'interno della zona industriale per capire effettivamente di che cosa vanno a parlare, perché spesso appunto con modo generico, no, così per grandi linee cercano di affrontare la situazione, ma risultano ai nostri occhi più ridicoli che se stessero zitti, perché comunque si vede che la situazione non la conoscono, la sottovalutano, e quindi diciamo è peggio far così. E senti, per andare sull'attività politica, cercando che purtroppo già ci stiamo allungando tantissimo, vado là. Sull'attività politica locale in realtà il problema grosso è che non ci sono, cioè qua a Brindisi si dice che quando l'Enel venne a costruire la centrale arrivò con 4 borse di soldi e se ne andò via con 2,5, cioè se le riportarono indietro, cioè la metodo che io lo vedo ancora è così, cioè ci vuole veramente poco per poter convincere l'economia o la politica locale a dire grazie signori dell'energia, la TAP è la prossima, ma la metodologia è la stessa. Grandi impianti che vengono qui, ti conquistano con pochi euro promettendo posti di lavoro, la politica si genuflette, la popolazione tentenne, insomma qualcuno sì, qualcuno no, però il resto, la cosa in conto, io vedo che la politica nella propria attività di lungimiranza, di proporre soluzioni moderne per la cittadinanza, qui è latitante. Ma c'è qualcuno invece che prova a opporsi da un punto di vista magari dal basso, in maniera auto-organizzata, al di fuori della politica istituzionale, o c'è anche questa difficoltà nella vostra provincia? Guardi, io ho parlato anche della politica in generale, poi ringraziando Dio abbiamo anche un consigliere comunale che siamo riusciti anche noi a promuovere, comunque abbiamo fatto una vera e propria lista civica, si chiama Brindisi Bene Comune, per cui abbiamo inserito questo consigliere all'interno, cioè comunque presente un consigliere all'interno del consiglio comunale. Uno su 32, 34, quanti sono, comunque purtroppo non può fare la differenza, e il problema io penso che sia più di coscienza e molto più diffuso, più allargato. Quindi fin quando non avremo o 25 consiglieri comunali o una popolazione di 50.000 abitanti cosciente e consapevole di quello che deve essere il contesto, noi non usciremo. Io personalmente 5 anni fa, quando abbiamo cominciato con questa lotta al carbone, ho detto tra 10 anni arriveremo al punto zero, cioè da lì potremo incominciare effettivamente a lavorare per dismettere la centrale. Ora sono passati 5 anni e dico che ne mancano 5. No, ed è molto importante come valutazione questa che fai, chiaramente nel momento in cui si inizia un tipo di lotta si dice fra 8 anni arriviamo al punto zero, quindi a quello in cui si può cominciare veramente a fare lotta. Senti, noi ti ringraziamo e chiaramente concludo con una cosa soltanto. Sì, vai. In questa fase stiamo raccogliendo i cocci di un'industrializzazione che si è perpetrata in modo alla rinfusa, e per cui non è facile raccoglierli, però bisogna avere la consapevolezza di dire ok, così non può più andare avanti, inventiamoci qualche altra cosa. Io non credo a chi ha la soluzione in tasca, ma provo ad ascoltare chi comunque ha preso consapevolezza che questo non può essere più il modo di fare. È un auspicio per la politica che insomma si mette effettivamente al lavoro, non a dare soluzioni, ma a fermarsi ad ascoltare le persone che vogliono trovare soluzioni. Spero che sia il passaggio di questa afferrata. Va bene, mi sembra molto importante questo che hai detto. L'invito che facciamo a te è quello che abbiamo fatto anche ai compagni di Lecce, chiaramente a contattare Radio Onda Rossa per comunicare nuove iniziative, future iniziative di mobilitazione e di lotta. Per questo noi ti ringraziamo. Ritorniamo a Roma come abbiamo fatto qualche tempo fa, eppure ci sentimmo per radio all'assemblea degli azionisti dell'Enel, ci risentiamo insomma con piacere per far sapere anche ai nostri, ai vostri radioascoltatori qual è il nostro punto di vista, insomma le nostre opzioni. Va benissimo, certamente. Buona giornata anche a te, ciao. Ciao. Allora ritorniamo in onda dopo questo brevissimo stacco musicale. È sempre un dispiacere tagliare le canzoni, però purtroppo già ci stiamo allungando tanto. Il prossimo collegamento è circa 70 km a ovest, quindi siamo passati da Brindisi a Taranto. Abbiamo in collegamento un compagno, appunto, se non vado errato, chiedo venia se sbaglio, della casa occupata di Taranto. Non erri. Perfetto, ok, dai. E purtroppo per vari impegni non ha potuto ascoltare fino ad ora la prima parte di questa puntata, però appunto noi abbiamo fatto un'introduzione sia col compagno di Lecce che col compagno di Brindisi da un punto di vista economico, sociale, di quella che è la situazione in città e in provincia. Abbiamo cercato anche di analizzare il dato delle migrazioni, di quanto possa influire sia in termini generali sia in termini politici, e poi siamo andati a parlare di quella che è l'attività politica che viene portata avanti da compagni e compagni in città e in provincia. Dentro questo schema noi ti chiederemo di parlare anche, se vuoi, a ruota libera. Vai te. Certo. Va bene, innanzitutto buongiorno ai compagni e alle compagne, è anche un piacere poter collaborare con voi e cercare di dare un contributo per la crescita collettiva del movimento. Dicevi bene quando davi delle indicazioni dal punto di vista economico, Taranto forse è l'esempio più lampante qui al sud, visto che è una città che di soldi non ne produce solamente per un PIL nazionale, a scapito addirittura di tutte quelle vicende, quelle persone morte legate alle vicende dell'Ilva, per esempio. Poi non sta a me raccontare la cronologia, perché ci piacerebbe un po' uscire da questa fase provincialista della lotta ambientale che si vive a Taranto. Sostanzialmente Taranto attualmente vive una condizione molto molto molto pericolosa e disastrata, perché a parte le vicende del siderurgico che non tramontano, anzi danno adito di continuità, viviamo anche il problema della presenza militare qui nei due mari, che è sostanzialmente la vera causa di tutti questi progetti che si svolgono nelle nostre terre. Il problema è che economicamente facciamo parte di un sistema che non funziona, economicamente è un modello che purtroppo sfrutta ancora i territori, devasta i territori e che uccide le persone, e dentro questo ambito dovremmo ragionare di un concetto completamente nuovo legato su tanti punti di vista. Dal nostro modesto parere lavoriamo in un concetto innanzitutto di formazione, perché chiaramente il sud diventa sempre terreno fertile di questi esperimenti, perché c'è un substrato di ignoranza che ne rende facile un po' gli svolgimenti. del tutto, per cui si sta lavorando tantissimo per quanto riguarda la formazione. Parliamo di scuole antisistemiche, parliamo di doposcuola popolari, parliamo di un vero e proprio processo di alfabetizzazione che possa dare un contributo, un concetto nuovo anche della comunicazione. Normalmente tra noi compagni parliamo anche un linguaggio abbastanza complicato e spesso non ci chiediamo se la persona a fianco ci possa capire. Bene, anche in quest'ottica, con questa ironica critica, stiamo cercando di modificarci un po' anche nei linguaggi, perché è importante che in questo mondo dei social network, in questo periodo dove tutti sanno i cazzi degli altri, magari non si sa della persona che soffre a fianco lo stesso pianerottolo, per cui dovremmo esercitarci su questi due fattori, perché secondo me sarebbero un po' l'elemento di rivalsa, un po' rivoluzionario, tra l'altro. La discriminante che segna un passaggio effettivo da una politica fatta tanto per fare a una politica che invece va a parlare alla pancia e alla realtà sociale. Certo. Ma infatti la realtà sociale è una lettura attraverso la quale si fa sempre difficoltà. Noi per esempio viviamo nel quartiere ghetto, malgrado sia il centro della città è un ghetto, un quartiere storico tra i più grandi e più antichi d'Europa, e in questo quartiere eravamo 30.000 persone, adesso siamo in 2.000, dove tutti, al 90% i palazzi sono pericolanti, dove si può accedere solamente a un 30%, e questo perché quel sistema economico che si stava annunciando all'inizio permette la speculazione edilizia in altri posti, allargando le città in vista di una presenza massiccia di operai nell'Ilva e di marina militare dall'altra, e di conseguenza non si dà proprio valore a quello che dovrebbe essere la cultura e l'identità. Taranto è una città che è nata con la pesca, per esempio, ci ritroviamo a fare il ferro in questa terra, però c'è anche da dire che tutto questo viene anche agevolato da quei poteri massonici che Taranto è caratterizzata proprio dalla presenza di tante logge e di malavitosi, che comunque si fa fatica ancora oggi a denunciare in prima pagina gli assassini del siderurgico, ancora non si parla di nome e cognome delle famiglie malavitose che a Taranto fanno tutto questo. Bene, questa è una presa di posizione di lotta molto attiva, perché non possiamo stare mai a perdere tempo dietro a degli eventi di calendario. Basta pensare che il fatto dell'Ilva scopre perché un magistrato cerca di mettere i sigilli all'Ilva, non è lavoro di una coscienza di classe operaia o lavoro di una coscienza popolare. Noi viviamo in base alle conseguenze di quello che sta succedendo su questo territorio, e che è un po' la linea comune costante di quello che succede in tutta Italia. Siamo bravi a fare tante situazioni, però dovremmo incominciare a essere un po' critici, e in quest'ottica abbiamo recuperato un palazzo che era completamente destinato a fonte di speculazione, l'abbiamo tolto alla malavita, abbiamo fatto risparmiare soldi pubblici, l'abbiamo costruito a parametro zero, ma non per rivendicare la casa, perché tra l'altro siamo tutti disoccupati, in questa casa moriamo anche di fame, però dimostriamo che in qualche modo è una forma di attacco verso un sistema che ci toglie sempre più ogni giorno delle cose che appartengono alla collettività, per cui ci permettono queste piccole agibilità di espressione che sostanzialmente non spostano niente sull'asse politico, per cui non mi sento di dire cose diverse da quello che vivono a Lecce o vivono a Brindisi o nella regione Puglia sostanzialmente, però è un legame che dovremmo sicuramente stringere con la tendenza nazionale, perché quello che si sta vivendo è questo. Viviamo di troppe vertenze, stiamo rivoluzionando poco, e dovremmo appunto chiederci un po' quale parte di attacco serve per cambiare le cose. Io ironicamente l'altro giorno si parlava di fronte di persone che resistono, beh, io penso che dopo un po' di tempo dovremmo essere pure stanchi di resistere, no? Dovremmo pur fare qualcosa, per cui questo è un po' anche l'auspicio nell'ottica politica che dovremmo un po' intraprendere. Poi dalle fasi trasversali di tutto quello che succede politicamente chiaramente dovremmo stare alle esigenze popolari, altrimenti cadremmo nell'equivoco istituzionale, no? Dovremmo noi praticare queste formule che non sono la solita critica che magari ci vedono a noi protagonisti ogni giorno nell'ambito di chi si lamenta, dice sono sempre i compagni a fare le cose, no, magari sono degli esercizi di contropotere che a noi servono per poter instaurare un modello partecipato democratico delle collettività, è quello che sta cercando di fare a Taranto sostanzialmente. Senti, guarda, quello che hai detto te negli ultimi due minuti è importantissimo, e tra l'altro coglie anche lo spirito di una trasmissione di questo tipo, perché il fatto di chiamare tante realtà cercando di andare quanto più in maniera diffusa sul territorio è proprio quello di dare la prospettiva prospettiva che ci sono tantissimi compagni e compagne che si muovono sul territorio nazionale, purtroppo magari anche in maniera disorganizzata o non relazionata fra sé, per cui quello che dici mi sembra importantissimo. E io, visto che parliamo di Taranto, vorrei farti una domanda specifica sull'Ilva, su quella che è la situazione attuale. Chiara, hai detto una cosa molto importante, è partito dall'indagine di un magistrato e non da una coscienza di classe. Ecco, appunto, è cambiato qualcosa, si è modificato qualcosa sia all'interno della popolazione, degli abitanti della città di Taranto, che subiscono magari in alcuni casi senza neanche poter godere dei benefici di quello che porta l'industrializzazione, ma anche dal punto di vista degli operai stessi, che anche loro vivono doppiamente lo sfruttamento e anche il fatto di vivere in una città che poi è terribilmente inquinata dall'Ilva. Ecco, come si è modificata? C'è stato un peggioramento, un miglioramento della situazione o... Allora, io ci tengo a dividere questa risposta in due ambiti. Uno, quello che è legato puramente all'area dei compagni, che è quella fase che ha messo insieme tutte quelle sinergie, quel famoso 2 agosto del 2012 con la cacciata dei sindacati in piazza, dove ha dato un po' di animo e stimolo un po' a tutto il movimento. E Taranto si è ripreso un bel pezzo di storia con quella giornata. Solo che poi purtroppo questa fase così complicata, quando vedi il ricatto occupazionale in prima linea con le poche disponibilità di occupazionali che presenta questo territorio, chiaramente il problema si fa molto più complicato, perché si fa difficoltà a unire le lotte. Sostanzialmente a Taranto adesso se ne parla tanto di Ilva, però non vorremmo che fosse un capo espiatorio di un qualcosa, perché come ti dicevo prima c'è la marina militare che sta contaminando i nostri mari da 100 anni e nessuno le dice niente. Ancora dobbiamo chiedere come cittadinanza scusa ai pescatori indiani uccisi dai maro italiani pagati con i nostri soldi, per cui Taranto ancora non c'ha questa coscienza di poter vedere realmente le ingiustizie che sta pagando. È un po' limitatore il discorso, perché chiaramente mettersi nelle condizioni di una famiglia che perde 4-5 persone per tumore, o noi stessi che abbiamo perso tanti compagni e compagne malate di tumore, chiaramente si crea un argine di odio verso il simbolo che sta distruggendo un po' la popolazione. Però dovremmo sforzarci un po' ancora, e facciamo difficoltà e fatica ancora oggi, a far capire che l'Ilva è la conseguenza di un problema, non è un problema. Cioè è conseguenza di un sistema che crea questi modelli di sfruttamento nei territori, e questo ancora si fa male, perché poi sostanzialmente si divide la popolazione, perché all'Ilva di Taranto ci lavorano 11.000, 20.000 persone, quelle che saranno, ma 3.000, 4.000 sono di Taranto, che se le mettiamo a paragone con i 105.000 disoccupati è un numero completamente irrisorio. Eppure questa fetta di disoccupati è allo sbando, non è auto-organizzata, vive di un'indifferenza totale delle problematiche, così come l'operaio che fa la vertenza per il contratto di lavoro non è vicino alle cause della casa, degli sfratti, cioè non riusciamo a trovare quel collante, proprio perché siamo abituati nella quotidianità a soffrire questo modello. Per quanto riguarda la condizione dell'Ilva, chiaramente se ne parla molto di più, ma l'Ilva è un discorso che ha incominciato a avere le sue critiche già nel 62 dopo l'inaugurazione. Ci sono tantissimi documenti, e questa è la parte che vorremmo un po' amplificare, che il capitalismo non è che uccide i territori e si arricchisce alle spalle di migliaia e migliaia di persone, di popolazioni intere. Quello che sta facendo il capitalismo con questi ritmi frenetici è di cancellare completamente la memoria. A Taranto non sappiamo più aprire le cozze, però sappiamo fare il ferro. Questo è un dato schiacciante, perché senza la memoria anche le nuove realtà vivrebbero solo di autorappresentanza, di un qualcosa che vivono e che purtroppo non sanno che gente prima di loro ha fatto. Ecco perché l'Ilva nasce, perché chiaramente la Todisco fa una denuncia di chiusura per irregolarità, ma dire era un discorso che è partito negli anni 60, ma sicuramente delle lotte ambientali negli anni 80 fatta dai compagni e le compagne, per cui non sono dei meriti, sono delle critiche anche a noi in movimento che non riusciamo a creare questo collante. Per quanto riguarda la condizione, dal mio punto di vista è un capro espiatorio, perché nessuno ancora riesce a dire sì, dopo l'Ilva cosa facciamo? O nessuno trova alternative, perché io capisco il ricatto occupazionale, ma il ricatto occupazionale deve essere visto come un contratto a nero, come 2 ore più sul lavoro per poter dar mangiare i bambini, ma avere la coscienza che quel lavoro stia uccidendo deve essere sicuramente uno smacco che deve far svegliare questa classe operaia, perché a Taranto il lavoro non te lo scegli, te lo calano dal cielo, perché nessuno ha scelto di fare l'operaio là dentro. Per cui la discussione è questa, riprendiamoci quello che va a fare. I tarantini penso che dovrebbero lottare nel senso di memoria storica e dire: noi vogliamo tornare a lavorare con il mare, perché non c'è città in Italia che è circondata dal mare come questa terra. E noi da una parte abbiamo la marina militare, l'arsenale che è con 18 chilometri di muraglione, che è un apartheid, e poi c'è questo mostro che è 3 volte la città di Taranto. a parte poi i drammi, perché qua la mattina uno si alza col mal di testa e pensa di avere un tumore. Questa condizione psicologica non aiuta né alla lotta, né alla presa di coscienza, né al sopravvivere, perché diventa realmente una cosa distruttiva. Per cui il disegno è questo: l'Ilva continua a buttare merda. Io abito a pochissimi metri dall'Ilva, la nostra casa occupata è vicinissima allo stabilimento, la notte ci tremano i palazzi, e questo è. Però tremano i palazzi perché lo Stato lo consente, il PIL aumenta e la gente ci va ancora a lavorare. Perché io a volte non voglio entrare nella condizione della classe sociale operaia, ma la composizione deve comunque svegliarsi e prendere coscienza, perché poi tutta la gente che ci lavora dentro è stata messa dentro attraverso un disegno molto preciso. Ancora ci sono le palazzine punitive, dove qualcuno che può alzare un po' più la voce viene messo in un angolo, e poi le poche persone che si danno da fare all'interno sono isolate davanti ai 20.000 operai che magari alimentano, attraverso il fatto che vengono dalle province, questa guerra dei poveri e questo razzismo becero che ai potenti fa comodo. Certo. Per cui questa è la fase drammatica di quello che viviamo. Senti, io farei anche una valutazione. Credo che queste dinamiche messe insieme, cioè il ricatto occupazionale e comunque un eco degli ecomostri, perché hai parlato anche della Marina Militare, abbiano provocato un'emigrazione, certo, di massa di migliaia e migliaia di persone da Taranto verso il nord. Questo lo confermi? È una verità? Assolutamente, è una verità. Io sono tornato a Taranto dopo 15 anni. Dopo che mi è morta la decima persona in famiglia, sono tornato a Taranto lasciando il lavoro che avevo trovato fuori. Ma questo è un progetto inverso, cioè pochi si ricordano di Taranto con quasi 500.000 di abitanti. Taranto adesso ce n'ha 200.000, è una città grande che è vuota. A Taranto ci sono 2-3 bar in una città che ha un bacino d'utenza impressionante. O basta pensare come è morto il mare. Nella città di Vico ci lavorano 20.000 persone alle cozze, noi a Taranto, che siamo il triplo, ne lavoriamo in 500. Questi sono dati schiaccianti. Ma ci sono delle cose, è normale che si scappa, non si vive bene, perché chi vuole avere garantito il futuro va in altre parti, poi magari riproducendo gli stessi paradossi. Uno se ne va a Milano per lavorare 12 ore, che non sarebbe neanche giusto, però purtroppo è questa la condizione. Come si fa a vivere in un territorio così devastato, così distrutto? È davvero una fatica, diventa complicato. Poi la cosa più allucinante è che tutto questo se ne pagano le conseguenze a migliaia di chilometri. Lecce è piena di malati di tumori per colpa dell'Ilva, Brindisi anche, Bari anche, Matera anche, per cui noi stiamo inguaiando una buona fetta del sud a scapito di un profitto, a scapito di poche persone e dalla corruzione malavitosa che rende questo equilibrio realmente stabile ogni giorno a scapito di popolazioni intere. Senti, io ti volevo chiedere una cosa prima magari di salutarci brevemente. Qualcosa già mi sembra che tu l'abbia detta, però la vostra attività politica suppongo si muova su più piani, e se puoi specificare quali sono questi piani. Suppongo che lottate anche contro gli sfratti, o comunque dal punto di vista del problema abitativo, ma anche il livello dello sport popolare, perché al compagno di Lecce abbiamo anche chiesto questo, cioè come allora io ti dico. Vai. A Taranto, dopo la questione dell'IVA, si sono svegliate molte realtà, ci sono 2-3 posti occupati chiaramente in fase di sviluppo e di coscienza politica, che siamo molto vicini e cerchiamo di collaborare insieme per portare la crescita politica di tutto questo. Noi ci muoviamo in ambito? Siamo nei quartieri, nella parte dove la gente normalmente non ci entra, in uno dei quartieri più ghetto del sud, Paolo VI. Abbiamo aperto una radio ultimamente che si chiama Radio Case Bianche, dove è la radio di tutti, la gente ci partecipa attivamente. Abbiamo creato un sistema di amplificazione intorno alle palazzine, in modo che anche la persona più ignorante, che non conosca l'uso del computer, possa ricevere di forma passiva la controinformazione che facciamo. Inoltre abbiamo aperto questo spazio alla collettività, dove facciamo queste fasi di autoformazione con questa scuola antisistemica, la scuola popolare, a letture politiche a parte dei corsi, e poi chiaramente gli interventi sul quartiere, che sono tanti. Viviamo la quotidianità, cerchiamo di stare sostanzialmente sempre in mezzo alla strada, poi molti di noi sono nati in questi quartieri, per cui è molto più facile, c'è una certa agibilità. Quello che abbiamo cercato di evitare in quest'ottica è di aprire i nostri spazi per un senso ludico e ozioso, che porterebbe un certo di persone, numere la sera, le persone, il divertimento. Noi vorremmo che la gente venisse a partecipare nella politica, poi magari la sera la birra ce l'andiamo a fare noi da un'altra parte, giusto per dare un po' l'aiuto a questo quartiere, che non è una fase di assistenzialismo, è una fase di organizzazione un po' più aperta, per cui stiamo sperimentando tutto questo. Chiaramente siamo vicino alla questione delle occupazioni. Qua in Città Vecchia delle 2.000 persone sono in occupazione quasi 1.500, per cui siamo noi che impariamo da questa gente a occupare le case, più che i compagni siano dietro a questa tematica. Chiaramente contro l'abuso, contro le speculazioni, poi c'è una forte fetta dei compagni che lavorano nella questione antimilitarista e antimafiosa, il confronto qua con i malavitosi ogni giorno, uno contro uno, ed è una realtà abbastanza difficile da gestire, ma è una scommessa che abbiamo voluto affrontare perché crediamo sicuramente che è necessario dover affrontare anche questa parte di sottoproletariato che tra l'altro non fa altro che alimentare le file di un'auto-organizzazione incosciente a scapito di uno Stato che magari non garantisce i minimi requisiti di vita. Per cui questo è un po' in linea di massima, in linea panoramica, il nostro impegno politico nei nostri quartieri. Bene, senti, noi ti ringraziamo, sei stato semplicemente perfetto in questa descrizione della città di Taranto e credo che lo spirito, due cose vadano colte dello spirito di questa tua corrispondenza, cioè il fatto che pur vivendo in una situazione complicatissima, drammatica, certo, quella è la città di Taranto, non ci si arrende e si cerca di influire su più piani su questa situazione, e dall'altro lato anche un richiamo al fatto che siamo, come compagni e compagne, strutture organizzate che fanno politica, troppo separati, poco in relazione, poco organizzati, e credo che questo sia molto importante da cercare di ribadire a tutti i compagni e compagne che anche magari stanno ascoltando questa radio o stanno partecipando, prendendo parte a questa trasmissione. Io faccio l'invito a te, come l'ho fatto agli altri compagni, chiaramente quello di risentirci in un futuro, sia per parlare di iniziative, sia per approfondire ulteriormente tutte queste dinamiche di cui tu parlavi. Con questo io, certo, direi ci possiamo salutare, ti ringraziamo e il prossimo. Io ringrazio tutti i compagni e le compagne che comunque collaborano in ogni struttura d'Italia ed è stato un piacere realmente collaborare con voi, dando questo contributo umile dalla città di Taranto. Un saluto a pugno chiuso a tutti e a tutte. Un saluto a te. Questo pezzo musicale che mandiamo lo dedichiamo a Claudio Morabito, un compagno proprio tarantino che è scomparso purtroppo qualche anno fa. Sta sempre a Claudio. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Allora ritorniamo in onda, andiamo un po' più a nord, un'altra novantina di chilometri più a nord, ci rispostiamo sull'Adriatico. Abbiamo in collegamento un compagno che vive e fa politica a Bari e al quale chiediamo, penso, credo, ho capito che ci ha ascoltato fino a questo momento, per cui chiediamo di inserirsi a gamba tesa sulla discussione che abbiamo aperto già a partire da Lecce e che cosa ci può dire in merito alla situazione che si vive economica, sociale nella città e nella provincia di Bari e soprattutto quali sono le attività politiche che si portano avanti, se non vado errato anche in questo caso, come ex caserma occupata. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti e a tutte, grazie per sia per avermi contattato che per questa canzone che è appena finito, che comunque mi ha un po' messo qualche emozione addosso, dato che con Claudio ho condiviso una parte di vita, diciamo. Sì, mi inserisco nel discorso portato avanti dai compagni di Lecce, Brindisi e per ultimo di Taranto, parlando un po' di Bari, che è leggermente diversa come città, perché non ha tutte quelle attenzioni addosso come può essere Taranto sotto il punto di vista industriale o sotto il punto di vista dello sfruttamento che si vuole fare di quella visione utopistica di questo turismo che allontana tutti i problemi della gente, anche più umile, come nel Salento. Bari e tutto il suo circondario si avvicina più a essere una città metropolitana e quindi con tutte le sue problematiche legate al commercio e alle attività portuali e tutto, un po' di tutto non è nulla, e in tutto questo si inserisce un grosso senso di disagio che viene dalle periferie e in cui il riferimento più vicino non è né lo Stato né i compagni, purtroppo, ma è la malavita, e in cui i ragazzi nascono con un immaginario che è di contrapposizione sia allo Stato ma attraverso dei canali differenti che non vanno per niente bene uguale. Proprio in questo noi ci siamo, diciamo così, tuffati in questa avventura che è partita all'incirca un anno fa, quasi un anno fa, il primo febbraio, che è segnata su un'onda emotiva di uno sgombero di un altro spazio occupato, quale era Villa Rock, ma che ha un po' unito varie aree di movimento della città di Bari in questo progetto che è andato ad occupare una di quelle, praticamente l'area simbolo di speculazione e degrado di 20 anni di malapolitica nel capoluogo pugliese, che è questa ex caserma gigantesca, parliamo di 85.000 metri quadri, uno spazio enorme, anche poco gestibile fra l'altro, che però è proprio strumentale a far capire alla città che ci esistono altri modi, che sono differenti da quelli istituzionali, dei bandi, delle speculazioni e tutto ciò che è adesso collegati, che è la riappropriazione diretta di spazi e necessità. Noi in quest'area da un anno cerchiamo di inserire e fare qualsiasi progetto che ci porta proprio la gente dal quartiere, dalla città, una città che ci vede sì quasi con distacco, però lentamente sta iniziando ad abituarsi ad averci come interlocutore, perché vede in noi un'alternativa. Ovviamente non siamo noi che portiamo a Bari certe pratiche come può essere l'occupazione, ci sono migliaia di case occupate, ma che vengono da tutt'altra base, sì, da tutt'altra situazione. Infatti io proprio questo ti volevo chiedere. Allora, prima di tutto, che tipo di quartiere è quello in cui si inserisce la vostra occupazione e, appunto, andando più in profondità, qual è stata la risposta? Già qualcosina la dicevi, però qual è stata la risposta del quartiere, della città, e se state raggiungendo dei risultati concreti con questa vostra occupazione e i progetti che portate avanti? Il quartiere in cui insiste l'ex caserma in realtà non è un quartiere estremamente disagiato, perché proprio per quella volontà di inserirsi in un punto cardine abbiamo occupato questa caserma, che è vicinissima alla stazione, quindi parliamo comunque di zona centrale e di quartiere medio borghese, insomma, con sì molte case, un sacco di gente che usa quel quartiere soltanto come dormitorio essenzialmente, però non è il quartiere simbolo del degrado barese, diciamo, quelli sono più esterni, più periferici, anche se ha comunque le stesse problematiche, magari più in piccolo. Il quartiere ha visto la caserma inizialmente come un'entità aliena ed è comunque rimasto molto incuriosito, perché uno spazio aperto alla città di 85.000 metri quadri, in cui è volente o nolente è nato un parco all'interno dello stesso, perché il cemento si deve pure arrendere alla natura quando viene abbandonato per 20 anni, e c'è stato questo impeto di curiosità che ha portato centinaia di persone ad affacciarsi a vivere lo spazio e a immaginarlo come suo. Quindi abbiamo visto immediatamente interessarsi e iniziare a interessarsi alla cosa, iniziare a portare i propri progetti, dal ragazzino che va in skate, che ha individuato la vecchia area di esercitazioni militari tutta in cemento come luogo ideale per farci nascere il suo skate park, alle persone anziane che portano a spasso il cane e comunque si cercano di entrare in un meccanismo, a tutte le persone che hanno individuato negli svariati spazi a disposizione il luogo ideale per portare avanti i loro progetti. Quindi il quartiere in sé ha inglobato, diciamo, la caserma, ma non parliamo più neanche di quartiere, perché ormai è la città che cerca di che praticamente fa i conti con con uno spazio che ormai in realtà offre tantissime opportunità a ragazzi soprattutto. E quali sono, se posso chiederti, i tipi di attività, certo, di progettualità politica che portate sia all'interno che all'esterno? Certo, in questo momento all'interno degli spazi della caserma ci sono, vabbè, oltre alla classica sala concerti che esiste un po' dovunque, c'è una palestra popolare, c'è uno skate park esterno ed interno, con un campo da basket autocostruito, una libreria sociale con annessa aula studio, un teatro che abbiamo recuperato dalla caserma con 120 posti a sedere, una piccola galleria espositiva, un orto sociale, e in progetto ci sono tantissime altre cose, come un campo da calcio a 11 che già esisteva e che stiamo ristrutturando, c'è in progetto la costruzione di una mensa popolare e varie altre iniziative, diciamo. All'esterno ovviamente cerchiamo di inserirci all'interno delle necessità soprattutto del quartiere, quindi a breve cercheremo di far partire un doposcuola pomeridiano per i ragazzi, oltre che alle attività sportive che offriamo praticamente dall'inizio, perché la palestra popolare e la libreria sociale sono state le prime due cose fatte sull'impeto emotivo dell'occupazione. Senti, scusa se ti interrompo, dalla descrizione che hai fatto dello spazio a me sembra che fondamentalmente state costruendo una cittadina auto-organizzata all'interno dell'ex caserma, per cui credo che la vostra attività politica vada molto bene nella direzione di una costruzione, seppur in piccolo, tra mille difficoltà, di una società alternativa, chiaramente all'interno della caserma occupata. Quello che volevo chiederti, oltre a questo, se riuscite poi, chiaramente io credo anche con tutte le difficoltà del caso, perché purtroppo questa è una verità fra tutte le realtà, magari le energie poi mancano anche per fare altro, però se riuscite anche a portare un po' di conflittualità all'interno della città, e se sì, in quale campo specifico? Sì, ovviamente, come dici, facciamo i conti come tutte le realtà con quell'emorragia di persone fisiche che portiamo avanti tutte le lotte in cui vorremmo affacciarci. Fortunatamente comunque, ovviamente, anche abbiamo più volte portato la nostra politica all'esterno delle mura della caserma, soprattutto per quanto riguarda la speculazione su cui ci siamo fiondati prendendo quel posto. abbiamo più volte denunciato attraverso varie campagne mediatiche tutto il progetto e la speculazione che c'è sulla caserma e su altri spazi di Bari. Ad esempio c'è in progetto la costruzione di di uffici per la regione proprio all'interno di un'area vastissima che è intorno al Castello Svevo e che sarebbe idealmente un parco naturale, e ci siamo agganciati alle richieste praticamente della città vecchia che chiedevano come fosse possibile che le istituzioni fossero così sorde alle necessità della gente, che di certo non vogliono una sala cinesca sul mare per farci degli uffici istituzionali, ma vedono in quell'area un'area di arricchimento per il quartiere, che è un quartiere comunque già disagiato. Quindi cerchiamo di raccogliere le istanze della gente comune, e in futuro una prospettiva, una speranza è quella di poter riuscire con le nostre forze a tirar su un comitato per la casa, perché è un'urgenza. L'urgenza abitativa a Bari è evidente, perché al contrario di come diceva il compagno di Taranto, che Taranto comunque soffre di questa emigrazione, Bari essendo più vicina a delle dinamiche metropolitane invece soffre il contrario, perché è città universitaria, è città in cui insistono tutti gli uffici istituzionali, è città centro, e quindi anche in parte un'industrializzazione, cioè l'aeroporto, esatto, sì. Per cui diciamo anche semplicemente facendo un giro per l'Italia non c'è la stessa quantità di emigranti da Bari e provincia come c'è invece dalle altre province della Puglia, chiaramente, per cui mi sembra molto, molto importante quello che dici te. Sì, esatto, sì, per quanto riguarda la parte industriale c'è tutta l'interland barese immediatamente vicino alla città di Bari, parliamo di Modugno essenzialmente, in cui insistono anche delle fabbriche molto, molto grosse tipo l'OM Carrelli, che vive una situazione di grande instabilità, e proprio negli ultimi giorni ci siamo trovati ad analizzare un documento redatto dalla FIOM e comunque dai lavoratori, in cui questi lavoratori denunciano questo stato di abbandono e di continuo smantellamento di quella che è la loro industria, e quindi della vera e propria messa in discussione della loro stabilità economica e di vita, perché tutta la fabbrica viene smantellata a discapito di altri stabilimenti, come succede purtroppo in varie altre parti d'Italia. In tutto questo sarebbe bello riuscire a coinvolgere sempre più gente per riuscire ad abbracciare tutte le lotte, che vanno dalla lotta alla casa, quelle per le occupazioni, alle lotte territoriali in sé, e compreso quelle le istanze degli operai in questo. Senti, mi sembra molto importante, chiaramente credo anche che sia un processo in divenire, perché ciò che si può evidenziare, che magari un ascoltatore o un'ascoltatrice può comprendere facilmente, è che sentendo le varie città ci sono livelli differenti di avanzamento della lotta. Chiaramente mi sembra che voi appunto, per quanto dicevi prima, abbiate cercato di costruire all'interno dell'ex caserma tutta una serie di attività per poi cercare anche di portare tutto quel portato all'esterno nelle lotte che cercate di mettere in campo, e mi sembra anche molto significativo ciò che dicevi prima, cioè di quello di provare a costruire un comitato di lotta per la casa nella vostra città. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa prima di salutarci, liberissimo di farlo, chiaramente. Sì, certo, innanzitutto grazie per l'opportunità a sua disposizione. Per quanto riguarda la caserma, sì, tu dici benissimo quando dici che ci stiamo ponendo con un fare diverso, perché comunque siamo un collettivo giovane e con un livello di conoscenza pure fra i vari componenti ancora molto edificabile, quindi parliamo di un anno, e in uno spazio così grande viene molto complicato avanzare. Comunque la volontà soprattutto di certo non manca per riuscire a raggiungere risultati sempre più positivi. Va bene. No, mi sembra ottimo e assolutamente in prospettiva, per cui sarà molto interessante risentirci fra qualche mese per capire come riuscite ad avanzare da tutti questi punti di vista. Nel frattempo noi ti ringraziamo, ti salutiamo e chiaramente qualora ci fosse la necessità di comunicare al di fuori della città di Bari e della Regione Puglia, lo stesso invito che abbiamo fatto agli altri compagni, lo facciamo anche a te. I microfoni della Tenda Rossa sono sempre aperti. Certamente, grazie mille, grazie a tutti. Ciao, grazie a te, buona giornata. Ciao. Che esce spada dall'onesto che ci sento freezer. Parli da ghost, ti mostri giusti, mostra muovo nell'logico, volto solo da volta stomaca, vomita su masticomaca, rima da set, look di set, no funk, burda prete da funk. Te chiacchiere boss, da regole in post, pedine da boss, schiava da borsa, scavata va fossa, ma fu passo di tasta la smooth. Hardcore, passa e chiude. Stata finita, sinta, spread e botta, crisi in disa, mega, sotto e a morte, l'asso spassa, in cassa e colpa doppia. Tipo lock and stroke, prima danni molto di fotonia. Non fa bene che qui la vagina non gira, ma gira il rima. Del giardino sconto e sconto, e ne faccio. Sono malanni in cane usano, tutta merda che ci danno. Gli astomi, ma Cristo santa, ma la ferra niente cancia. Senza un traguardo, scarso da speranza. Usi per chi ce l'ha, io sono i politici al bastardo. Intanto chi è tu sangue, ti guardi le scheme che angia. Mangia anche chi ci arrangia, mi sono in tabella fan. Brughi e lati in tanti. Guarda pure in tuo paese, già stiamo a via stanni in fanza. No funk, dalla costa alla montagna. Io state caccio manco, manco in prima nel fulman. A one and can, why se pece della tan. Quando danno gatto fanno banche governante. Fughe e fiamme dell'allarme, c'è ste per altri calmi. Arma se vai armo, mondi trista da contarla. Zombie di villaggia, ragione cresce a raggio. Ma i ricchi benestanti, ancora contano i miliardi. Stata attinta, sinta, spretta e botta, crisi in disa. Mega, sotto e a morte, l'asso spassa in cassa e colpa. Allora purtroppo anche in questo caso tagliamo questa bellissima canzone da un dialetto un po' strano e un po' incomprensibile, però purtroppo per questioni di tempo dobbiamo un po' correre e anticipo, fino ad ora non si sono sentite le loro voci, però per questa occasione, per questa puntata dalla Regione Puglia, abbiamo voluto invitare altri compagni che vivono a Roma ma provengono da la città di Foggia nel loro caso e che introdurranno questa prossima corrispondenza che appunto abbiamo con un compagno di Foggia. A voi la parola. Buongiorno a tutte e tutte, sono Guido e ci spostiamo appunto di un centinaio di chilometri più a nord, arriviamo a Foggia dove siamo in collegamento con Alfonso. Ciao Alfonso. Ciao. Ciao, allora buongiorno. Come dicevo, tu sei del centro sociale occupato e gestito Scuria, un posto occupato appunto qualche mese fa e volevamo sapere appunto visto che i tempi stringono di raccontarci un po' questa esperienza che viene dall'incontro di compagni ma anche di tanti giovani a Foggia che mossi dall'esigenza, dalla voglia, dalla allora capacità, dalla forza di appunto riappropriarsi di uno strumento importante per la lotta. Partendo da una miriade di posti abbandonati che le istituzioni appunto non vedono come fonte di profitto e lasciano all'incuria e al degrado. Quindi volevamo sapere da te appunto se potevi raccontarci questa esperienza, come è nato l'incontro dei vari collettivi, la fusione in un collettivo, l'occupazione, la riappropriazione, e appunto allora, come, qual è la vostra idea di movimento nella città per inserirvi nelle contraddizioni e cambiarla? A te la parola. Allora, iniziamo con una piccola osservazione. La Puglia, siccome la puntata verte su questo, è una regione molto lunga e quindi lo scenario cambia parecchie volte, mentre in altre realtà la cosa che preme di più era quella ambientale. Nella nostra, una delle cose che preme di più è sicuramente la condizione dell'edilizia, della speculazione dell'edilizia. E in particolare Foggia è una di quelle città che tende ad allargarsi senza riempirsi, cioè un continuo costruire e abbandonare al degrado. Sì, come hai detto, più compagni di diverse realtà a un certo punto hanno preso coscienza di questa condizione e hanno deciso di confluire in un unico collettivo per la riappropriazione di uno spazio da ridare alla cittadinanza. Questo è avvenuto definitivamente il 12 maggio del 2014, quindi siamo a quasi 7 mesi, e con la nascita del CSO Ascuria. È un laboratorio politico che vanta dei servizi alla cittadinanza tramite l'utilizzo di dei laboratori specifici, ne contiamo all'incirca 11 e sono svariati, si va dalle produzioni audio digitali alle ciclofficine o alla palestra popolare che abbiamo intitolato al compagno Claudio Morabito. A livello territoriale ci siamo mossi in più direzioni, dalla più semplice rivalutazione delle tradizioni in modo da mettere in correlazione persone di generazioni e condizioni diverse, o più semplicemente alla partecipazione di manifestazioni o cose di questo genere, ecco. Sì, sì, mi senti? Sì, una domanda: come si inserisce appunto la vostra lotta in una città che è di forte vocazione contadina ma non operaia, e quindi dove appunto gli operai si spostano nella vicina Fiat di Melfi? In che maniera voi vi muovete in questo senso, diciamo? Principalmente allora, una delle cose che stiamo tenendo d'occhio in questo periodo è sicuramente la possibilità tramite lo sblocco Italia di arrivare nella zona del Foggiano, sia nella vicina periferia sia per tutto il resto della provincia, a eventuali scavi petroliferi e speculazioni di questo genere che distruggerebbero il territorio dal punto di vista appunto agricolo, alimentare. E quindi su questo in realtà siamo anche più vicini a condizioni di ecosostenibilità che sono già state trattate dalle altre realtà di questa puntata. E sì, principalmente con questo stiamo lavorando adesso, cioè ci stiamo interessando molto a questa questione. E la vostra presenza all'interno della lotta nella vicina Potenza per quanto riguarda le trivellazioni, ecco, magari raccontateci, partecipazione attiva in questa lotta. Che tra l'altro, scusami, prima di rispondere, questo di fatto anticiperà la prossima puntata che andrà appunto a parlare, a interrogare compagni e compagne dalla regione Basilicata. Appunto, però già parlare e vedere una intersecazione fra le varie regioni delle lotte ci sembra molto importante. È un punto fondante in realtà quello di stringere correlazioni, di fare rete fra realtà che sono vicine, anche se non nell'immediata regione, anche perché quello che sta succedendo adesso in Basilicata, cioè che è una regione groviera dove la speculazione delle lobby con il petrolio e la speculazione delle mafie con l'immondizia stanno distruggendo di fatto un territorio, e tutto questo passa assolutamente in sordina a differenza di altre situazioni. Presto potrebbe toccare anche alla regione Puglia. In realtà già ci tocca, perché per dire il bacino idrico che alimenta la Puglia passa dalla Basilicata, quindi se le acque vengono avvelenate lì le beviamo velenose qui, semplicemente banalizzando, ecco. Senti, io a parte questo volevo chiederti un quadro più generale dell'attività politica anche vista in prospettiva, quindi perché se l'Oscuria è nato come occupazione pochi mesi fa, di sicuro c'è un lavoro pregresso fatto in anni e anni da parte di tanti compagni e compagne. Ecco, secondo questa prospettiva com'è che si agita nella città di Foggia e quale apertura a nuove possibilità di mobilitazione di lotta ha portato un'occupazione come l'Oscuria? Guarda, allora partiamo dal presupposto che l'Oscuria non è uno di quei centri sociali che diventa presidio, cioè dove ci si chiude dentro e si produce da sé per sé, è più un avamposto. L'abbiamo preso come luogo per poi uscire fuori e fare manifestazioni fuori in sia per la città che fuori dalla città. Questo lavoro qui è nato sì, molto molto prima, dal lavoro di una parte del collettivo, che lo Jacob prima, che ha fatto tutto un lavoro di ricerca su varie situazioni nella città di abbandono e degrado, e ancora prima alle precedenti occupazioni che ci sono state a Foggia. Basti pensare che uno degli slogan che utilizziamo spesso, che è "odio la rassegnazione", viene dalla piscina occupata, che è un centro sociale che c'era a Foggia 20 anni fa. Quindi è un lavoro in continuità, in realtà non c'è un inizio in particolare, è tutto in divenire. E proprio questo, infatti, mi sembrava importante cogliere questo lavoro fatto in anni e anni che poi porta a nuove possibilità. Ecco, di fatto ora fra l'interno e l'esterno del centro sociale quali sono le attività sia all'interno che i tentativi di lotta che portate all'esterno? Le attività all'interno sono tutte quelle dei laboratori, come ti avevo detto prima, cioè dalla palestra popolare alla ciclofficina, alle sale prove, piuttosto che la biblioteca popolare, dove stiamo facendo anche una serie di presentazioni di libri che fanno focus su argomenti che altrimenti magari non verrebbero trattati. E invece all'esterno ultimamente ci stiamo muovendo per questioni particolari, come può essere, ti faccio un esempio così per dirtene una, la riapertura del Teatro Giordano dopo 10 anni di lavori che l'hanno tenuto chiuso, e che a Teatro Aperto è stato prelazionato da una determinata classe dirigente, cioè non c'era la possibilità di ingresso al teatro durante gli spettacoli per il resto della popolazione. O piuttosto la questione degli aventi diritto alle case popolari, che invece trovano questo diritto negato, o addirittura aventi diritto che occupano altre case perché non sono stati, pur essendo pur avendo diritto di assegnazione, non ne hanno avute fornite, e poi vengono sgomberati. Quindi l'imbarazzante situazione di essere un avente diritto che viene sgomberato. Ecco, queste in realtà esistono e persistono per Foggia, e su queste noi ci muoviamo. E così ti volevo chiedere, Alfonso, in vista di tutto questo che hai detto del vostro lavoro che avete cominciato a fare, qual è la risposta della città? Cioè, se il centro, l'avamposto, viene visto come un punto da cui partire, come uno strumento di cui dotarsi, oppure la partecipazione è bassa e indifferente, diciamo? No, assolutamente c'è una risposta molto positiva da parte della città. Abbiamo una continua affluenza di curiosi e interessati, e gente che poi si trova a partecipare con noi alle attività. Su questo siamo veramente orgogliosi come procede in questo senso. Quindi si può parlare di effettivamente una riuscita di questi spazi di lotta aperti in tutti questi anni, e nello specifico, per esempio, quello che ti chiedo su queste ultime due le chiamo campagne fra molte virgolette, quella sul Teatro Giordano e quella sulle case popolari, qual è nello specifico proprio la risposta su quello? Vabbè, c'è stata sicuramente una risonanza non tanto mediatica quanto di social, di partecipazione di interessati, musicisti che sono venuti a suonare da noi per un controconcerto, gente che ci chiedeva come, se e quando fare eventuali altre azioni assieme. Quindi in realtà la dimostrazione della riuscita è che si vuole continuare a battere su questo quanto su altro. Senti, per me, anche per motivi di tempo, potremmo chiudere qui, però prima di salutarci, quello che ti chiedo è se ti va di aggiungere qualcosa, anche magari riferendoti a cose che hanno detto tutti i compagni che sono intervenuti prima di te. Guarda, ti dico semplicemente l'unica cosa che credo che vorrei aggiungere a nome di tutto il collettivo che si occupa di accessi a scuria è che la cosa principale da fare è quella di serrare i ranghi e far convergere le lotte in un unico percorso. Per il resto nient'altro da aggiungere. E credo che si possa cogliere tranquillamente lo spirito che ha attraversato questa puntata, queste corrispondenze, perché suppongo, almeno mi è sembrato di sentirlo proprio chiaramente dalle parole di tutti voi, c'è questo spirito in ogni città, per cui mi sembra molto importante. Va bene Alfonso, ti salutiamo, abbraccia la ciurma, ciao. E buon pomeriggio, diverti. Va bene, ciao, ti ringraziamo, buona giornata a tutti e tutte. Finisce qui questa puntata di In Giro per l'Italia. Anticipiamo che dopo le vacanze, quindi anche in tranquillità, dopo l'Epifania, il primo sabato dopo l'Epifania, ci sarà la prossima puntata con la Regione Basilicata. Buona giornata e buon sabato a tutti e tutte. Siamo la ciurma nemica di una galera infame, su cui in realtà la morte miete per lenta fame. Ma gli orizzonti limpidi schiude la nostra aurora, e sulla tolda squallida urla l'ascolta ogni ora. I nostri visi involano tra fetide carene, siamo magri smunti schiavi stretti in ferro catene. Sorge sul mar la luna, ruotano le stelle in cielo, ma sulle nostre luci steso è un funereo velo. Sorge sul mar la luna, ruotano le stelle in cielo, ma sulle nostre luci steso è un funereo velo. Dorme di schiavi adulti, gementi schiavi, questo remar remare. Meglio morir tra i flutti sul biancheggiar del mare. Brigante come Carmine Croppo e Lincoln Hanco, e sua la testa mozza che financo sopra i libri di storia hanno stampato. Rubava ricchi per dare ai caponi, per questo gli tagliarono i coglioni. Per lui la prigione meridionale non è stata da te. nonno di mio padre era bracciante, disoccupato e morto di fame. Un giorno fu preso a lavorare nel tavoliere come stagionale, ma non sapeva che si era scioperato, per questo si trovò morto ammazzato. Per lui la missione meridionale non è stata davvero un buon di mio padre non aveva nemmeno terra dove lavorare, allora decise di occupare un po' di terra incolta nell'arneo, ma un poliziotto con la camionetta gli fece a pezzi la sua bicicletta. Per lui la prigione padre infine è stato un emigrante, io dico è stato perché non c'è più, non voglio ricordare come fu, a voi non interessa, a me fa male, non so neppure dove si è perdito, perché non scrisse più dopo partito, per lui la missione meridionale conosco invece un tizio, un professore, che studiando con cura la questione, nel mezzogiorno in breve è diventato un grosso personaggio, un deputato, dirigenti, corsi e scuole d'arte, e gli entrano quattrini da ogni parte. Per lui la questione un poco.